9 in punto, la versione di Oscar. Oh, how elaborate flies the end of everything that stands the end. No safety or surprise the end. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 6 aprile, è un venerdì santo e in questo venerdì santo la mia introduzione in effetti non si discosterà molto dal tono che è giusto usare un venerdì santo. Non è un tono ovviamente di quelli di grande gioia, ma è un tono che lega insieme vicende diverse. Il filo è un po' questo di una parola pesante, la parola pesante è quella del suicidio, perché avremo nella prima parte della trasmissione tra pochissimo Giampaolo Panza con noi, perché a lui chiederemo cosa pensa, ci dia qualche strumento interpretativo per il suicidio politico del leader della Lega, che dopo tanti anni in cui ci aveva abituato a colpire pesantemente nel linguaggio, nello stile, deliberatamente anti partito e antisistema, proprio la vicinanza appiccicosa dei vecchi partiti alla finanza pubblica, poi alla fine cade esattamente su quello e cade sui propri figli, sulla propria famiglia. Lo ha fatto in un modo che merita rispetto, più di altri capi di partito che negavano, perché ha dovuto ammettere il proprio errore, i figli in politica. Però è impressionante effettivamente, e si chiude una lunga pagina. A quello poi legheremo un'altra parte della trasmissione legata al suicidio degli imprenditori, degli artigiani, dei commercianti, dei lavoratori dipendenti che sono disperati in un'Italia che declina. Ma prima lasciatemi dire che anche oggi i giornali dei miei autorevoli colleghi, molto più di miei autorevoli colleghi, mi lasciano senza parole per la riforma del lavoro questa volta. E a colpirmi è il fatto che su questa riforma, che è diventata una pessima riforma, pochi hanno coraggio, perché proprio il tema della Lega naturalmente acquista sulla stampa italiana, sui media italiani, ed è comprensibile, ed è giusto una attenzione preponderante. Però dovremmo aver capito da anni, gli anni della crisi, gli anni in cui appunto io inizio con i dorsi ogni mattina per fare capire che non è vero che il peggio è alle spalle, che probabilmente l'Italia doveva cambiare marcia. Abbiamo cambiato governo, c'è il governo dei tecnici esattamente per questo, ha fatto una riforma delle pensioni che secondo me resta la parte più alta e apprezzabile di quello che ha fatto. Poi qualche delusione con le liberalizzazioni, su questa riforma del mercato del lavoro non ci siamo proprio, e le imprese lo hanno detto. E come reagisce la stampa italiana? Bene, se io devo paragonare Wall Street Journal e Financial Times, che se ne sono resi conto, e come, che la riforma del mercato del lavoro è diventata il contrario di quello che ci si aspettasse, e che criticano con grande spirito di libertà e con grande durezza la riforma, e paragono la stampa italiana, non posso che chiedermi cosa ci sto a fare qua, perché effettivamente sono sempre più fuori linea. Il Wall Street Journal, per esempio, scrive un editoriale che fuori dai denti dice: ragazzi, abbiamo sbagliato. Il titolo dell'editoriale Wall Street Journal è Surrender, Italian Style, come ci si arrende all'italiana. I sindacati annacquano e smantellano la riforma del governo Monti, questa è la seconda riga dell'editoriale, e l'editoriale che io vi consiglio di leggere perché è la cosa più esplicita che troviate, molto più di quanto non la troviate sui giornali italiani, sul passo indietro, il passo del gambero di questa riforma del mercato del lavoro, che resta solo fatta di pesanti aggravi all'ingresso e di la rinuncia al principio dell'indennizzo invece che della reintegra giudiziale, almeno per licenziamenti economici, e che per il resto ieri ha introdotto tre nuove tasse: la tassa sul decollo per ognuno dei 75 milioni di passeggeri che prendono l'aereo in Italia, altri 150 milioni di incentivo al turismo italiano, ovviamente il contrario. Questa è stata l'ennesima trovata di ieri: 10 punti di deduzione in meno per gli affitti per chi non applica la cedolare secca, le deduzioni addirittura in meno per le automobili aziendali per pagare la riforma del lavoro. Ma poi soprattutto, quando ci si inventano ormai le tasse anche sui passaggi aerei in un passaggio in un paese che dovrebbe attirare turisti, vuol dire che si è arrivati, e in un paese, perdonatemi, in cui le compagnie aeree di tutto hanno bisogno tranne che dello Stato gli succhi ancora soldi, beh, vuol dire che siamo veramente arrivati alla frutta. La mia delusione per questo governo è molto, sempre più forte. Allora, in questo bellissimo The Italian Wall Street Journal si dice: ragazzi, ci eravamo sbagliati, perché la settimana scorsa noi addirittura abbiamo paragonato Mario Monti a Margaret Thatcher. Lasciamo stare i santi, scrivono testualmente. Ma quale Margaret Thatcher alla luce della sua riforma al mercato del lavoro? Al massimo Ted Heath, l'ultimo predecessore Tory, che non ci aveva praticamente il coraggio di affrontare i minatori e i sindacalisti, che poi lasciò la Gran Bretagna come era quando Margaret Thatcher arrivò. Totale marcia indietro, quindi, del Wall Street Journal, Financial Times. Sui giornali italiani, la mia opinione è che sia molto apprezzabile il commento di Alberto Lesini e Andrea Chino sul Corriere della Sera, che dice: questa è una riforma che meglio lasciare le cose come stavano piuttosto che farla a metà e rendere del tutto intoccabile per altri 20 anni, in negativo il mercato del lavoro. Pessimo la stampa, io di solito ne parlo bene, ma la stampa oggi diventa veramente la gazzetta ufficiale in ginocchio di fronte al governo, con un'intervista al ministro Fornero che attacca gli industriali perché sarebbero loro, gli industriali, quelli che fanno il teatrino delle parti sociali. Il teatrino lo farebbero gli industriali solo perché sono rei di dire che arrivano più tasse, più irrigidimento in ingresso, non si smonta niente all'ingresso, all'uscita, e oltretutto il finanziamento messo dal governo per il finanziamento degli strumenti universali a sostegno del reddito per chi perde lavoro sono risibili, e di sicuro non basterà neanche questa nuova raffica di tasse aggiuntive per giustificarle. Quando la piega che prendono i giornali nei confronti dei governi in carica diventa così genuflessa e inginocchiata, è classicamente un pessimo segnale in Italia. Se a questo aggiungete il fatto che temi come l'esenzione dell'IMU alle fondazioni bancarie sono, come continuo a ripetere, spariti da tutta la stampa italiana tranne rare eccezioni, e devo segnalare anche il Tempo di Mario Secchi, ho segnalato Giordano, ho segnalato il Giornale, perché sono quelli di destra o più vicini alla destra e tutti gli altri non lo fanno? Perché considerano che sia negativo dover sottolineare che il governo su questo si rivela un po' troppo il governo dei banchieri, dopo che per mesi abbiamo giustamente detto che la Chiesa doveva pagarlo di più. Allora, questo è il quadro nel quale poi crescono le famiglie che stanno sempre peggio. Ogni giorno abbiamo i dati di quanto sia arretrata la capacità di risparmio, di reddito disponibile, di patrimonio delle famiglie italiane, in cui poi i suicidi vanno avanti e però nessuno ci fa caso. Non voglio fare il decostruzionista negativo, però questa piega inizia a non piacermi, ed è a questo punto, e dopo questa bella introduzione che dà il quadro e il senso della giornata, che io vi presento l'ospite al quale chiediamo, ringraziandolo, di illuminarci su come stia vivendo, abbia capito e immagini che abbia conseguenze le parole di Umberto Bossi di ieri e questo autoribaltamento suicida della Lega su temi come i soldi ai figli del capo. Giampaolo Pansa, grazie a te. Grazie a voi. Allora, di che devo dirti, caro Oscar? Che impressione ti fa il boss di ieri e tutti questi anni di Lega finiti così? Ma guarda, mi ha fatto un'impressione relativa, perché adesso, non per dire, io l'avevo già scritto, un vecchio detto del giornalismo americano suggerisce: nessun articolo deve puzzare di "io l'avevo detto". Già a marzo avevo detto: ma mandatelo fuori, salvatelo, non lasciatelo morire su quella tribuna, costringetelo a mollare il potere, ma naturalmente non c'è stato verso. Allora, mi ha fatto un'impressione relativa, perché mi è sembrata una storia già abbastanza conosciuta. Sai che cosa mi ha fatto venire in mente? Mi ha fatto venire in mente un grande romanzo che io da adolescente ho letto 3 volte, I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, e c'è tutto questa parte che allora a me terrorizzava, della peste a Milano, che prima colpiva in basso, poi ha cominciato a colpire a mezza altezza, poi ha cominciato ad arrivare anche ai grandi, se non sbaglio anche Don Rodrigo è finito in quel guaio. E per Bossi è successa la stessa cosa. L'Italia è afflitta, non soltanto la politica italiana, ma in generale l'economia italiana, o comunque chi ha a che fare con quattrini, con imprese, con traffici, con commerci, e con una peste pazzesca che è quella della corruzione. E quindi anche questa peste è arrivata anche alla Lega. Non è arrivata soltanto ieri o quando sono stati scoperti da queste 3 procure le cose che poi hanno indotto Bossi a presentarsi, ma erano già storie che si sentivano raccontare. Quindi Bossi è una dei caduti in più, caduti non onorevoli, devo dire, anche con tutto il rispetto che ho per la sua situazione e anche per la sua salute, che era fatale che accadesse. Non capisco perché la Lega cos'è, Santa Maria Vergine? La Lega è un partito che è stato partorito nell'Empirio e poi è calato sulla pianura padana per in qualche modo risanarla e riscattarla da tutti i suoi errori, da tutte le sue sporcizie? Assolutamente no. È un partito italiano, sta sul terreno da un sacco di tempo. Io l'ho seguito fin dall'inizio, Bossi, non ne sono mai stato innamorato come altri illustri colleghi che non nomino perché in parte sono già morti. Uno li chiamava i nuovi partigiani, fanno la nuova resistenza, mi faceva ridere anche abbastanza orrore questa definizione. Quindi Bossi, e allora per tirare le somme di quel che abbiamo visto, io ho fatto su Libero un pezzo intitolato, mi era venuto in mente la mattina quando non sapevo ancora cosa sarebbe accaduto, perché la lettura di 11 giornali spingeva il mio vecchio fiuto da vecchio cane da caccia nella direzione di Bossi Duraminga non può durare. E l'ho intitolato il 25 luglio del Senatore. Bossi è finito, è stato eletto presidente ma la sua carriera è chiusa. L'unica cosa che possiamo augurargli è di non avere un altro ictus, perché lo stress di queste due giornate deve essere stato tremendo anche sul suo corpo, sulla sua attività fisica, su quella cerebrale. È chiuso, è finito, la Lega è finita, la Lega non lo so, non credo sia finita, si prenderà una sberla secondo me terribile, ma meno di quanto immaginiamo alle elezioni amministrative del 2 maggio. Cosa farà quando entrerà in scena in modo definitivo Maroni, ammesso che lo eleggano e non ci sia qualche complotto di palazzo per far fuori anche lui? Dopodiché, secondo me, la Lega non ha altro destino che allearsi di nuovo o con il PDL, se resterà il PDL, o con qualche formazione moderata che fatalmente nascerà o tenterà di nascere in previsione delle elezioni politiche generali del 2013. Da solo non può campare, non ha, ma non perché non abbia i soldi, perché figuriamoci, le cose che sono state scoperte in questi giorni sono delle briciole, hanno certamente un sacco di quattrini, in parte derivati dal finanziamento pubblico sotto forma di rimborsi elettorali, ma certamente molti del partito avrà fatto i suoi traffici, avrà preso le sue tangenti, le sue mazzette, e che non hanno un gruppo dirigente all'altezza della crisi italiana. Cioè, io ti ho sentito dire, ma conoscevo già la tua posizione, le cose che hai appena detto sul governo Monti, sui suoi errori, sui suoi ritardi, che in parte tu sei un giornalista molto informato, molto acuto e molto obiettivo. Il problema vero è che anche tu forse non sai rispondere alla domanda, va bene, questo governo non ti piace, che ne facciamo? Cosa mettiamo al suo posto? A chi affidiamo la guida del paese? Chi proponiamo come nuovo presidente del Consiglio? Sono domande che escludono la Lega. La Lega non ha nessuna classe dirigente in grado. Maroni è stato un bravo un ministro dell'interno, coadiuvato anche da un team burocratico, penso a Manganelli, a De Gennaro, che lo hanno aiutato in modo molto reale, ma dopodiché, non lo so, non mi sembra. La crisi italiana è così forte che rende anche non dico i giganti, ma i signori di altezza media, i piccoli nani, compresi noi giornalisti, le cose che tu dici sui giornali sono sacrosante. Ma anche i giornali sono lo specchio del declino dell'Italia, quindi di che ti stupisci, caro Oscar? Ah, purtroppo ti devo dare ragione, perché quando vedo la vecchia Mediobanca che è ridotta a reggere la coda, il Greste a coinvolgere l'Unipol, quando vedo il RCS che imbarca perdite a miliardi e diventa la parodia della vecchia RCS, della vecchia Mediobanca, con Della Valle che dice io ci metto i soldi ma mi cacciano perché devono mettere dei burattini nelle mani di Elkann e di Nagel, cioè, ma devo ammettere che è un problema complessivo quello del non essere all'altezza in Italia. Sì, è un problema complessivo che io vedo a tutti i livelli, perché oltretutto abitando in un piccolo paese certe cose si intuiscono e si intravedono meglio che di chi abita nelle grandi città, ma naturalmente tutto ha una sua misura e ha un suo rischio, perché se non funziona l'elettricista che tu chiami per ripararti un impianto qualunque, perché mai dovrebbe funzionare chi guida grandi società, grandi gruppi industriali? Ho letto anch'io l'intervista su Repubblica di Della Valle, che è bella, ben scritta, molto piacevole, perché vedere finalmente un padrone del vapore che va fuori dai gangheri e dice papale quello che ha in testa, a questo punto. Però Bossi ho cominciato a pensare, non mi sto rendendo conto adesso mentre parlo con te, vedi la funzione maieutica troppo buono di incontrare un collega intelligente, anche molto più informato di me. È un personaggio di un'altra epoca. Sai, lui tra l'altro è sulla scena, adesso l'ho scritto ieri nel mio pezzo per libro, credo dall'84, quando ha fondato la Lega Nord, tutto era già scritto. Ha dovuto comprare i diplomi di laurea per i suoi figli, ma cavolo, lui stesso penso poi sia stato mollato dalla prima moglie perché aveva dichiarato di essere laureato in medicina, non lo era, ma gli italiani sono fatti in questo modo. Capito? Io quando ho fatto l'università avevo un padre operaio del telegrafo che su un taccuino segnava esame per esame quando lo facevo e che voti prendevo, non mi sono mai sognato di truccare le carte, ma era un'altra epoca, stiamo parlando di, non dico del 700, dell'800, ma anche la prima metà del 900 è un'epoca, ma Bossi appartiene a quel mondo, Bossi ha finito, ha chiuso. Io non credo che ieri tutti dicevano, sentivano, lui stesso ha detto adesso sono il presidente della Lega, non crediate che sparisca, ma è sparito. Quello che è avvenuto è quello che deve ancora avvenire, perché come sempre il telefono mi aiuta, ho amici romani che forse sono troppo immersi nei gossip della capitale, i gossip politici mondani, ma le cose che a sentir loro devono ancora uscire non le abbiamo ancora viste. Quindi secondo me tutta questa vicenda del Senatur prenderà una piega talmente grottesca e comica che lui ne uscirà ancora più distrutto, perché un politico che prende dei quattrini per sé o per il partito, boh, l'abbiamo visto già un miliardo di volte, ma uno che si fa comandare da due signore, una la moglie che pare sia esperta di occultismo, di riti magici, e l'altra da questa improbabile vicepresidente del Senato che è la Rosy Mauro, e di fatto queste donne complici la malattia lo hanno catturato, mettiamo l'espressione fra triple virgolette, questa è una storia, è anche una posciata all'italiana. Ci sono dei personaggi da cinepanettoni, manca solo che si scopra che Bombolo e Alvaro Vitali erano iscritti alla Lega fin dalla fondazione. Beh, in effetti devo ammettere che il tesoriere, il Belsito, è un personaggio come questo che stai dipingendo tu, cioè un ex autista che capisce che può diventare lui il detentore attraverso un potere di ricatto sui familiari alla cerchia, da ex autista diventare un tesoriere, sottosegretario. Io ho scritto che ha l'aspetto del bodyguard della guardia del corpo scartata per eccesso di peso, però è un signore che poi leggo dai giornali ha dato 50.000 euro al segretario regionale della Lega in Liguria per poter essere messo nel consiglio d'amministrazione della Fincantieri, e la Fincantieri, tu me lo insegni, è un'azienda oggi in grande difficoltà, problemi giganteschi, questo è diventato vicepresidente della Fincantieri, ma siamo pazzi, ma allora io voglio dirigere l'armata austro-ungarica, scusa. Senti un po', la questione, distinguiamo adesso quello che può capitare o meno a Bossi e alla Lega, è la questione del Nord, di cui pochi pazzi come Luca Ricolfi e il sottoscritto molto meno autorevolmente di lui, ma continuiamo a dire guardate che potete illudervi, la Lega può essere meno importante, il centrodestra può sparire alle prossime elezioni, ma la questione della divergenza di produttività che poi Bossi ci aveva regalato è ancora più viva che mai, e questo è il problema. Secondo te che impatto avrà su questa disattenzione di un paese che pensa solo poi... Un impatto tragico, perché sai, io abito nel centro Italia, ma sono un padano anche più di Bossi, perché sono nato sul Po, Casaremmo Ferrato, non sono mai andato in vacanza fino a quando ho cominciato a lavorare e le mie vacanze erano sul Po, quindi sono intriso di padanità più di tanti dirigenti della Lega, ma lo vedo anche... Tutto si tiene. Allora, posto che io la penso in questo modo, penso anche tu ne hai parlato molte volte, che il primo cancro dell'Italia sia l'evasione fiscale, ma dove avviene soprattutto l'evasione fiscale? Al Mezzogiorno, certo, gli evasori sono anche al Nord, ma questa faccenda, ma ci sarà di fatto, c'è già una secessione mentale. Io conosco persone che non vanno più al sud da anni, non vogliono più saperse, si sentono estranei a quel mondo. Quindi questa cosa peserà. Io quando ti sento parlare, specialmente quando sto in macchina, guida delle Grisendi, quindi posso ascoltarti con tranquillità, ti sento molto pessimista e tu lo sei diventato anche molto, molto di più anche negli ultimi mesi, soprattutto riguardo al governo Monti, ma sì. Non è questa la nostra discussione. Ma io mi rendo conto, questo è un paese che deve ancora affrontare la prova più dura e speriamo che non venga, che non è quella di diventare come la Grecia, ma quella che emergano dall'interno delle regioni più ricche e quindi dal nord e anche in parte del centro Italia, delle forze che non sono delle forze politiche, ma sono delle forze, come dire, di intervento per legittima difesa e per rabbia e fastidio e nausea di come funziona la politica italiana. Sto ben attento a misurare le parole, non voglio parlare di cose, di personaggi in divisa, intendiamoci, ma sai, le esperienze che abbiamo visto nel mondo occidentale, a cominciare dalla Grecia, che è un paese che ci è molto vicino, quando si sono arrivati al potere i colonnelli, ma non lo so cosa può accadere. Quindi io sono, confesso che per certi aspetti dirò una cosa che non ho mai detto, guarda, io il primo ottobre farò 77 anni, 77, certo sto in una delle province più longeve d'Italia e vedo manifesti mortuari, è morta improvvisamente la signora Taldeitari, anni 98, quindi sono anche contento di non durare tanto, mi dispiace per mio figlio e per i miei nipoti, ai quali auguro di vivere molto più a lungo di me, ma non so che fine faremo. Ma io invece sono ragionevolmente certo e continuare a parlare e a leggere i tuoi pezzi per almeno vent'anni. Posso farti una citazione letteraria? Sì. Allora, è un grande libro di Orwell, Omaggio alla Catalogna, questo scrittore, l'autore della Fattoria degli Animali, 1984, tornava a Londra dalla guerra di Spagna, aveva partecipato nelle file del PUM, Partito Obrero di Unificazione Marxista, una specie di partito extraparlamentare avversato dai comunisti e dai sovietici mandati da Stalin in Spagna, e il leader era stato assassinato in modo turpe, mentre lui, il suo libro, racconta il suo viaggio di ritorno in treno e disse, mentre tornavo in treno a Londra, rivedevo questa città meravigliosa, con le sue case tutte ordinate, con la bottiglia del latte sulla porta, il New Statesman tra la bottiglia del latte e lo stipite della porta d'ingresso, il giardino curato, le tendine alle finestre, tutto immerso in un profondo, profondo sonno dal quale temo saremo risvegliati dal fragore delle bombe. Lui tre anni prima aveva visto i bombardamenti tedeschi su Londra. Ecco, io temo che l'Italia, che adesso è molto sul nervoso, ma comunque sta abbastanza tranquilla, non tema, qualche volta io lo temo molto invece, di essere risvegliata da qualche evento tragico che rischia di distruggere le condizioni normali della nostra vita civile. Però ho detto, sono stato troppo pessimista. Giannino, che mi fai dire? No, io penso posso farmi uno spot personale? Certo. Te lo manderò, a metà aprile uscirà il mio libro sulle sinistre italiane, intitolato Tipi sinistri. Ecco, già il titolo fa capire, ma io penso invece, Giampaolo, che noi dobbiamo, tu sei 100 volte maestro, ma aspetta un secondo, ma io penso che sto freno che la stampa italiana sta avendo nei confronti della profondità, della radicalità dei fattori della crisi italiana, che sono bassa produttività, divisione geografica, divergenza nell'adesione spontanea alle leggi, cioè il fatto che noi sentiamo, ma se la raccontiamo davvero contribuiamo al disastro sia un grande problema italiano. È questo che poi spinge la stampa in ginocchio ai governi pro tempore, perché sembrano... Però, io devo dirti che non mi sembra però che i giornali siano così nella loro totalità. No, così, totalità mai. Davanti ai professori. Totalità mai. Insomma, non lo so. Ma anche i giornali, l'abbiamo appena detto, sono lo specchio di che cos'è, ecco, l'Italia. Ecco. Ma soprattutto applicano la vecchia regola che era di Springer, dei giornali popolari che aveva inventato in Germania, che erano le tre sesso, sangue e soldi. Questo è. Ma il sesso, ma io vedo cose che una volta scoprivo soltanto sui calendari dei parrucchieri, ma questi in organi di stampa, basta vedere la pubblicità, organi di stampa molto seriosi, in bombetta, con il doppio petto, con l'ombrello, con l'aria del giornalista che va a lavorare a raccogliere notizie o a Mediobanco o meglio ancora nella City londinese, e dopodiché è quello, cioè i diritti ci sono, il sesso e i soldi sono quelli, sono gli unici soldi di cui si parla con verità sui grandi quotidiani italiani, sono quelli delle tangenti prese dagli altri. Vabbè. E quelli del signor finanziamento dei partiti che prendono 4 e spendono 1. Va bene. Io ti ringrazio molto e in attesa dei tipi sinistri di Giampaolo Panza. Grazie. Tra poco in edicola. Intanto noi andiamo in pubblicità, a presto. Allora, cito alcuni degli ultimi suicidi ai quali chiedo di prestare tutti un pensiero commosso questo venerdì santo. Ricordate la 78enne di Gela, 2-3 giorni fa, che si è buttata di sotto perché 200 euro di pensione le erano state levate da 800 a 600, si è uccisa. Il giorno prima un artigiano di 57 anni si è impiccato nella sua bottega di cornici a Roma perché stava fallendo. Il giorno dopo si è sparato un altro imprenditore a Roma, si è tirato una fucilata in petto per la stessa ragione. Il 27 marzo Giuseppe Pignataro, 49 anni, Trani, si è ucciso, si è buttato dal balcone. L'uomo era un imbianchino e non ce la faceva più. Il 23 marzo si è ucciso un imprenditore 44enne a Cepagatti, Pescara, si è impiccato nella sua azienda, strozzato dai debiti e non reggeva la vergogna di non riuscire a pagare lo stipendio ai suoi dipendenti. Il 21 marzo un uomo di 47 anni gestiva un'attività commerciale ma da 2 anni era senza lavoro, si è ucciso con un colpo di pistola, Cosenza. Il 21 marzo un imprenditore edile di 53 anni in crisi da tempo perché non riusciva più a riscuotere i crediti, nessuno lo pagava, crediti che vantava nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di privati, ma le pubbliche amministrazioni sono quelle che ti prendono i soldi in tasca con assoluta regolarità per le tasse, ma naturalmente loro non ti pagano, e si è ucciso pure lui. Io posso andare avanti praticamente con ogni giorno nel vedere questa crescita di suicidi che c'è stato in questa stagione. Se sui libri di storia ai giovani studenti si spiega che nella crisi del 29 a buttarsi di sotto dai grattacieli a New York erano i banchieri, nella crisi che mai ci ha abbandonato dal 2008 in avanti e che è diventata più dura nella crisi dell'eurodebito, ed è una crisi che riprende perché gli spread risaliranno per via delle elezioni francesi, delle condizioni della Spagna, del fatto che la caduta del PIL, mi dispiace per l'ottimismo dei membri del governo Monti che credono che non si renda loro omaggio, ma per colpa del loro errore di fare solo tasse aggiuntive senza tagliare un solo euro di spesa pubblica, il PIL andrà sempre peggio. Purtroppo è in discesa libera, il reddito disponibile delle famiglie viene eroso dalla pretesa fiscale dello Stato aggiuntiva, il risparmio cade, il risparmio è in caduta anche dagli sportelli bancari, accentuando le loro difficoltà, hanno perso 26 miliardi nel primo trimestre di quest'anno, e la dovremmo piantare anche di dire che quindi il sistema bancario italiano è il più forte dell'Occidente, perché non è più così. Obiettivamente, in tutto questo, a buttarsi di sotto, a impiccarsi e a spararsi non sono i banchieri, sono gli imprenditori, sono gli artigiani, sono i commercianti, sono i lavoratori dipendenti che perdono il posto di lavoro. Questa è una realtà terribile che non voglio dipingere ogni giorno perché voglio criticare o perché ce l'ho col governo. Io sono solo deluso a questo governo, continuo a pensare che fosse necessaria la sua nascita e che molto potrebbe fare, se certo cambia testa ed è capace anche di fare tagli alla spesa, non di inventare 3 tasse al giorno come ha fatto ieri, oltretutto per una riforma che è peggio di prima sul mercato del lavoro, che pensino Monti e la Fornero. E a chi suscita in testa l'idea di questa catena di suicidio, l'idea che si può fare e si deve fare qualcosa. Di pubblico abbiamo visto niente, ma nel privato sì. L'appello che abbiamo lanciato con Bortolussi, con la sua CGA di Mestre, ricordate, abbiamo fatto due trasmissioni con l'idea del fondo. Il fondo nasce dall'idea che non vogliamo i soldi dello Stato, che deve averne di meno, ma chiedevamo a tutti che fossero forze dell'impresa, del sistema bancario, assicurativo, a mettere in piedi con pochi euro un sistema di ascolto di chi è così disperato che la vuole fare finita. E allora abbiamo oggi con noi Massimo Mazzucchelli. Massimo Mazzucchelli è un imprenditore, la Fratelli Mazzucchelli è un'impresa che ha più di 50 anni nella provincia di Varese. Massimo Mazzucchelli è impegnato oramai in questi anni di crisi da tempo, a lungo, ed è impegnato in Lombardia nella rete di imprese che resistono, che avrete visto sicuramente, mi auguro che l'avete visto molte volte in televisione o parlare alla radio, appunto della necessità del fare rete insieme spalla a spalla per non arrendersi alla crisi. È coordinatore del progetto Terraferma, e Massimo Mazzucchelli è tra chi da Besnate, dove Doopera agisce, ha messo in piedi proprio una rete di aiuto psicologico, di sostegno con professionisti, psicologi eccetera, che si sono resi disponibili a farlo, proprio con l'idea di dare una risposta, un tentativo di ultima istanza di ascolto, di sensibilità, di cuore in mano a chi è disperato per la crisi e la vuole fare finita. Io ringrazio Massimo Mazzucchelli di essere qui con noi e gli chiedo di spiegarci com'è nata l'idea, come sta andando in questi giorni, che cosa ne può nascere, insomma. Grazie intanto per quello che fa Mazzucchelli. Grazie a voi per l'opportunità, buongiorno ai vostri ascoltatori. Ma ne ha parlato lei nel preambolo che ha fatto, ha spiegato quali sono le tre ragioni principali per cui nasce Terraferma. Allora, da una parte dobbiamo dirlo, mi permetta di dirlo chiaramente, la piccola e media impresa è stato riconosciuto che sia la spina dorsale dell'economia italiana. Bene, allora dobbiamo dirlo chiaramente, la piccola impresa non ce la fa più a sostenere quest'Italia. Noi piccoli imprenditori e i nostri dipendenti che paghiamo le tasse non ce la facciamo proprio più a sostenere l'Italia in questa situazione, con la legge, con la politica che c'è in questo momento. Dall'altra parte c'è il fatto che, come diceva lei, non arrivano risposte. Se non mi sbaglio, non so se si ricorda, lei in una trasmissione diceva che c'è un, dicendolo forse in modo un po' aristocratico, c'è un difetto di interlocuzione in Italia, cioè le istanze dei cittadini fanno fatica ad arrivare al governo. Ecco, mi permetta di fare una critica, spesso diciamo le istituzioni che ci sono in mezzo, dico associazioni di categoria, partiti, lo stesso Parlamento, i sindacati, i vari livelli della politica, comuni, province, regioni, a volte non sono un canale, ma sono un muro contro cui le nostre istanze rimbalzano. In mezzo poi c'è l'imprenditore che noi ci siamo resi conto che quando è in difficoltà non chiede aiuto. Io adesso non sono capace di rispondere alla domanda perché non chiede aiuto, forse per orgoglio, non lo so, per vergogna, per responsabilità di fronte magari ai propri dipendenti o alla propria famiglia, non lo so, però si chiude in se stesso e non chiede aiuto. E queste sono le ragioni per cui a un certo punto ho detto dobbiamo fare qualcosa, e ho chiesto un aiuto a una categoria di persone che parlo di psicologi e psicoterapeuti che in questa crisi hanno riconosciuto la difficoltà della situazione, hanno detto diamo una mano per quello che possiamo, e abbiamo messo insieme questa rete di psicologi e psicoterapeuti. Ecco. Si aspettava in qualche misura, di fronte a questo fenomeno che è diventato sempre più forte negli ultimi mesi, come se fosse saltata una soglia psicologica, ed è questo quello che io temo. Sì. Non perché prima i disparati fossero meno, perché non è che in poche settimane si moltiplica, il problema è cambiata la soglia di percezione psicologica, e quindi la catena emulativa rischia a questo punto di essere ciò che poi diventa la cronaca quotidiana. Allora, per spezzare questo, lei si aspettava in qualche misura una reazione diversa, che qualcuno scendesse in campo, che qualcuno dal il pubblico facesse qualche cosa, oppure la realtà è che bisogna che noi siamo consapevoli e sapere che solo dal basso possiamo trovare risposte a ciò che, appunto, io troppo aristocraticamente chiamo il difetto di interlocuzione, che significa che lo Stato in realtà pensa solo a se stesso e piglia solo per sé dove riesce a prendere, per il resto non dà. Ma cioè noi con imprese che resistono è 3 anni ormai che urliamo e non abbiamo ormai quasi perso la voce, urliamo che la situazione ma già dall'inizio cominciava a peggiorare e lo abbiamo fatto proprio perché ci aspettavamo una reazione da parte delle istituzioni e della politica, ma ci siamo resi conto che l'unico modo che abbiamo per rispondere con le poche risorse che abbiamo è quello di metterci in campo noi, innanzitutto, come diceva lei, no? di fare rete, di fare gruppo per poterci aiutare. Ma delle iniziative sono state messe in campo dalle istituzioni. Io tempo fa, dopo aver letto un articolo su un giornale che parlava di un numero verde che era stato attivato, adesso io non ricordo in quale regione, un numero verde che doveva dare sostegno agli imprenditori in difficoltà, e mi ricordo che il giorno dopo aver letto l'articolo ho provato al mattino, al pomeriggio, alla sera a telefonare a questo numero, ma non rispondeva nessuno, e un po' di tempo dopo ho letto che il numero di telefono era stato sospeso, era stato disattivato. E anche quello, allora, questa cosa, cioè il fatto che spesso ciò che mette in campo le istituzioni viene fatto solo momentaneamente, poi non ci sono le risorse per mandarlo avanti, o forse perché manca proprio la forza per poter tenere in campo certe iniziative. E dall'altra parte il fatto che si è cominciato, allora non se ne parlava per niente di questa situazione, addirittura la crisi non esisteva, sì. Ma anche il problema di questi gesti estremi, che però volevo una precisazione, gesto estremo io lo intendo anche Alexandra che davanti alla prefettura di Varese sta manifestando perché non sono arrivati i fondi, certo, dell'alluvione di qualche anno fa, ecco, anche quello è un gesto estremo, certo. Però gesti ancora più estremi, di fronte a questi gesti c'è nulla stava arrivando, e tra l'altro a un certo punto di questi gesti estremi si è cominciato a parlarne, e sono parole di importanti personalità della politica, si è cominciato a parlarne sulla stampa come se fosse una cosa normale. Aspetti che la interrompo qua perché siamo in ritardo con l'informazione stradale, poi torniamo con Massimo Mazzucchelli, l'impresa che resistono, a parlare di questo suo progetto Terraferma. Un orecchio di ascolto rispetto a chi è così disperato, imprenditore, artigiano, commerciante, da dire la faccio finita, per dire noi siamo qua fratelli col cuore in mano dell'Italia che si regge in piedi malgrado lo Stato ci sia nemico. 9 in punto, la versione di Oscar. Riprende This is the End, The Doors. No, lo dico agli ascoltatori che mi chiedono: sei nostalgico di Berlusconi? Sei sempre uguale? No, non sono nostalgico di un governo che aveva perso ogni credibilità e negava che la crisi ci fosse. No, no e no. Non è questo il punto, sono però crescentemente deluso di una roba che, come ai suoi tempi, solo tasse in più. E poi soprattutto i professori che non nutrono ambizioni politiche devono fare le riforme di fondo, taglia la spesa per liberare risorse per le imposte e riforma il mercato del lavoro vere, profonde. Non sono un nemico dell'articolo 18, ma non mi possono dire che introducono l'introduzione di un sostegno al reddito universale per chi perde il posto di lavoro quando poi non ci mettono le risorse perché non hanno tagliato la spesa e mettono altre tasse aggiuntive, capite? Non mi possono dire mettiamo l'indennizzo per il licenziamento economico e dire il testo non si cambia. Era Monti a dirlo, mica io, l'ha detto per tutta la durata del viaggio in Asia, poi torna, si ribalta la faccenda, torna il filtro giudiziale per ogni tipo di licenziamento e mi dicono che non bisogna criticare perché io ledo la maestà dell'opinione internazionale di questo governo. Ma a me hanno insegnato che i professori devono parlare oggettivamente delle cose, non che sono politici girafrittate. Se sono politici girafrittate anche a loro, i miei colleghi scrivano che sono meglio degli altri, per me diventano come gli altri? No, peggio degli altri, perché dai professori io ho l'obbligo di aspettarmi un'attenzione concreta per le sofferenze e i problemi veri dell'economia italiana, di chi regge in piedi questo paese con lo Stato che si piglia tutto il resto. Ecco perché siamo qui a parlare, oltre che del suicidio della Lega, oltre che della delusione di questa riforma del mercato del lavoro, con Massimo Mazzucchelli, di chi invece dal basso, da imprenditore, mette risorse a disposizione, coinvolge psicologi, coinvolge reti di ascolto sul territorio, dopo che persone analoghe nella rete di rappresentanza delle imprese sul territorio, come Bortolussi, con cui tante volte abbiamo sollevato questo problema, hanno tentato di attirare l'attenzione rispetto al periodo in cui si era ancora riduci dal fatto che la crisi non c'era e c'era solo gente che frignava troppo perché magari aveva sbagliato gli investimenti nel settore o perché non era stato all'altezza come imprenditore, perché per lungo tempo questa fu la reazione, e per lungo tempo agli artigiani e ai commercianti la reazione superciliosa fu quella di dire: ma voi signori siete in troppi a scommettere su voi stessi, volete lavorare da soli quando invece sarebbe più conveniente che faceste i lavoratori dipendenti. Prima di arrivare alla consapevolezza di quanto profonda sia la disperazione di questa parte d'Italia, che si vede in crescita le pretese dello Stato, per lungo tempo questa è stata la reazione che abbiamo dato. Secondo me, quando Mazzucchelli dice noi siamo rimasti soli e ci invitavano solo in televisione, ma nelle reti territoriali della rappresentanza delle imprese non è che ci dessero molto retta, secondo me ha ragione. Che cosa è cambiato a un certo punto, Mazzucchelli, secondo lei, se qualche cosa è cambiato? Ma a dire la verità è cambiato poco, forse un po' più di attenzione da parte dell'opinione pubblica, invogliata così, diciamo così, dalla stampa, dalla televisione. Però mi permette di usare le sue parole: non mi possono dire che in questo momento l'aumento dei gesti estremi è normale, perché in periodi di crisi è normale che sia così e non si fa niente. No, bisogna agire, bisogna mettere in campo delle azioni concrete. Quindi dico, non sta cambiando nulla, perché anche le riforme che sono state messe in campo, come ha detto lei, cioè non è che me lo sto inventando io, aggravano la situazione, perché è un circolo vizioso e peggiorando la situazione non fa altro che peggiorare ancora di più. Purtroppo qui veniamo poi a una delle questioni di fondo, le questioni di fondo che hanno a che vedere con l'onore, la considerazione sociale, per così dire, e come le norme continuano a radicare nel nostro paese l'idea che l'imprenditore, ma l'artigiano, il commerciante, vale per qualunque livello in realtà del suo fatturato, debba per così dire sempre andare bene per definizione. Se non va bene diventa una questione di disonore, perché gli strumenti dell'ordinamento che consentono di dire, come avviene alle persone giuridiche, insomma, qui le cose non vanno, bisogna costruire una cornice che mi consentano di ristrutturare senza perdere la faccia e continuando ad avere la possibilità di onorare i miei impegni, ma a un livello più basso, perché adesso la capacità di onorare i miei debiti è venuta meno perché gli ordinativi sono venuti meno. Noi questa roba nel nostro ordinamento non l'abbiamo mai avuta, però continuiamo a non avercela, vero Mazzucchelli? Perché neanche su questo è mai cambiato niente. No, assolutamente. E tra l'altro è anche una questione diciamo di un tipo di cultura, di modo di pensare. È risaputo che quando si parla di piccoli imprenditori sono quelli che evadono, no? Evadono per forza. Però abbiamo visto che i problemi concreti dei piccoli imprenditori, per esempio con il Ministero delle Finanze, con l'Agenzia delle Entrate, spesso sono dovuti al fatto che noi denunciamo quanto dobbiamo pagare effettivamente, ma poi non abbiamo i soldi per farlo. Esatto. E non sono stati messi in campo delle iniziative che permettano di risolvere questo problema, perché tu fai ricorso per una cosa del genere, per esempio sugli studi di settore, e non hai ancora ottenuto il ricorso e già Equitalia ti ha pignorato il capannone, i macchinari per lavorare, ti ha portato via la casa che hai dovuto dare in garanzia, perché non basta più la capacità dell'imprenditore di fare reddito, perché alla fine è quello, no? Ci vogliono tutte le garanzie proprie e poi anche le garanzie magari dei parenti, perché non sono mai sufficienti. Certo. Quindi è proprio una questione di cultura che dobbiamo riuscire a cambiare, e dall'altra parte anche forse un po' di mentalità dell'imprenditore, che io ritorno a dirlo, l'imprenditore nel momento della difficoltà deve essere in grado, deve trovare anche le persone disposte a farlo, deve essere in grado di poter aprirsi e di poter spiegare che è in difficoltà. Io qui la devo fermare perché il tempo è finito. Massimo Mazzucchelli, grazie a lei, a chi grazie con lei ha messo in piedi questa iniziativa di Terraferma. Grazie a Gianpaolo Panza prima, io vi posso augurare solo buona Pasqua, rifletterò se essere ancora con voi dopo e pregherò perché cambi questo Stato e questo governo che mi sta deludendo. A dopo Pasqua.